qual è la percezione che i cittadini europei hanno dell'Unione Europea, soprattutto in un momento di crisi dell'euro, ma non solo, come c'è in questi mesi? Beh, Euronet, il progetto paneuropeo al quale apparteniamo, il network radiofonico, questa settimana analizza i dati dell'Eurobarometro, dati a lungo termine che, boh, insomma, nonostante la crisi dell'euro, pare che ogni cittadino europeo consideri positivamente l'Unione Europea. Insomma, continua a esserci una percezione favorevole rispetto perlomeno all'idea dell'Unione Europea. Ovviamente ogni nazione ha percezioni diverse, c'è chi vorrebbe uscire dall'Unione, c'è chi invece vorrebbe entrare. Cammini che abbiamo raccontato più volte qui all'Altra Europa, è veramente difficile generalizzare, come è sempre complicato leggere dei numeri. Ci vogliamo far aiutare quindi da un sociologo, da un esperto in materia, per capire se si può veramente misurare quella che è la percezione, quella che è la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Europa. Abbiamo quindi invitato il professor Fabio Bordignon, svolge attività di ricerca presso Demos NP, insegna metodologia della ricerca sociale e politica presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e fa parte del gruppo di ricerca della Polis. Buongiorno Fabio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Sempre complicato, credo, tradurre dei numeri in umori e viceversa. E le abbiamo chiesto di dare una letta a questa fotografia che è l'Eurobarometro, per capire cosa sta succedendo. I cittadini hanno una sorta di relazione positiva nei confronti di questa Unione Europea o c'è solo freddezza? Diciamo che in questa fase emerge un atteggiamento ambivalente, nel senso che sebbene i dati di Eurobarometro registrino una certa tenuta, sicuramente si può parlare quantomeno di un raffreddamento dei sentimenti anti-europeisti, che invece si registrava qualche anno fa. Parto dal dato italiano, sì. E vi do qualche dato in più anche rispetto a quelli di Eurobarometro. Certo. Noi oggi abbiamo la fiducia nell'Unione Europea tra i cittadini italiani ai minimi storici. L'ultimo sondaggio che abbiamo condotto sul tema qualche settimana fa dalla componente che esprime una fiducia nell'Unione Europea al 25%, ed è un dato molto, molto basso rispetto a quello che registravamo invece qualche anno fa. Quindi siamo in una situazione del tutto particolare ed anomala rispetto ad una situazione che una decina d'anni fa vedeva l'Italia come uno dei paesi più europeisti su scala continentale. Il dato italiano segue un po' il trend che si registra un po' in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea, un po' con le stesse dinamiche, nel senso che il declino in qualche modo dell'euroentusiasmo si è registrato verso la fine del decennio scorso, per quanto riguarda l'Italia in particolare dal 98 in poi, cioè dopo il raggiungimento dell'ingresso nel club dell'euro. Sì. E però poi conosce una significativa contrazione soprattutto nell'ultimo periodo, e qui il collegamento rispetto all'esplodere della crisi è molto evidente. Bordino, una curiosità, scusi, ma sì. Si sovrappone la fiducia o la voglia di Europa con la fiducia o la voglia di euro? Cioè, in questa analisi tendono a coincidere i due elementi, cioè l'Europa anche come idea e l'euro invece come moneta? Sì, le due cose tendono ad andare insieme, però attenzione che, come dicevo in apertura, questo dato si combina con un atteggiamento pragmatico e per l'appunto, come dicevo, ambivalente, nel senso che nonostante il declino della fiducia in generale, questo non si traduce in una ipotesi di fuga dall'Europa, almeno per il momento, cioè si traduce in un atteggiamento di tipo tiepido o scettico nei confronti dell'Europa, ma non ancora in sentimenti di tipo anti-europeo in senso stretto. E questo avviene per due motivi, almeno questo emerge dai dati che noi abbiamo rilevato. Da un lato c'è comunque l'idea che l'Unione Europea sia un'istituzione con la quale saremo chiamati a misurarci ancora in futuro. abbiamo provato a chiederlo ai nostri intervistati, chiedendo se fra 3 anni ci saranno ancora l'Unione Europea e l'Euro e se l'Italia ne farà parte, e più di 3/4 degli intervistati ha risposto affermativamente, cioè l'Unione Europea esisterà ancora e l'Italia ne farà ancora parte, e lo stesso per quanto riguarda la moneta unica. Quindi diciamo che quello continentale è ancora un orizzonte rispetto al quale saremo chiamati a muoverci all'interno, di fatto. Dall'altra parte ci sono anche paure molto forti circa l'ipotesi di una fuoriuscita dalla cornice europea, nel senso che l'idea dell'abbandono dell'euro, dell'Unione Europea, genera effettivamente delle preoccupazioni. Quindi, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue critiche, l'Europa dà ancora l'idea di un confine all'esterno del quale, diciamo, le prospettive sono molto più incerte e traballanti. Certo. Ecco, se si potesse riassumere così in una parola, è ottimismo, è pessimismo o è realismo? Direi realismo. Diciamo che dobbiamo partire un po' dal dato, diciamo, che tradizionalmente ha caratterizzato l'approccio degli italiani all'Europa. Cioè, al di là degli atteggiamenti, diciamo, più squisitamente euroentusiasti, l'Europa è stata sempre vista in modo pragmatico e come uno strumento di difesa. Sì. Di difesa sia rispetto al mondo esterno, quindi ai fenomeni della globalizzazione, rispetto alle turbulenze dell'economia e della politica internazionale, ma anche come protezione rispetto a noi stessi in qualche modo, quindi contro le inefficienze dello Stato e della politica nazionale, rispetto ai quali appunto si attribuiva all'Europa e alle istituzioni continentali un ruolo di supplenza. Oggi si assiste ad un fenomeno di tipo diverso, cioè in un momento in cui è molto bassa la fiducia nelle istituzioni, in senso lato, di ogni tipo, il sentimento europeista si raffredda a sua volta, e quindi, a differenza di quanto avveniva in passato, abbiamo ad esempio che istituzioni di tipo nazionale di garanzia riscuotono un livello di fiducia superiore rispetto a quello dell'Europa, quindi il Presidente della Repubblica su tutti, certo, e questo certo. È un dato tradizionale, ma perfino la fiducia nel governo è superiore a quella rispetto all'Unione Europea, e questo è un dato del tutto nuovo. Grazie. Quindi, nel momento in cui questo ruolo di supplenza, diciamo, viene ricoperto in modo diciamo completo e totale, e allora diciamo sorgono le resistenze. Mm-hmm. Grazie davvero, Bordignon. Ricordiamo demos.it per conoscere meglio l'istituto di ricerca, euronet.io invece il nostro portale. Bordignon, grazie davvero, buona giornata. Buona giornata a voi.